try to meet him. Where'd you read him? This one needs a brand new read him. Weed and the key. Weed and the key them to life. Let's beat him. Weed them smartphones, don't beat them. E questa era Borders, frontiere di Maya Mia, MIA, come preferite chiamarla, una canzone dedicata alle frontiere. Noi in questo sabato del villaggio stiamo superando le frontiere, un sabato pomeriggio senza frontiere. Adesso è il momento del nostro gastronauta che ci ha già anticipato che appunto tanti cibi, tanti tipi di cucina ormai sono senza frontiere. Davide, da cosa cominciamo? Io direi cominciamo da certi piatti, io li chiamo apolidi, come ho già detto prima, ad esempio il kebab ormai si mangia un po' in tutta Europa, in tutto il mondo, la pizza lo stesso, l'hot dog, il couscous. Ecco, sul couscous vorrei fare così una chiosa molto particolare, perché couscous è addirittura secondo gli arabi, cioè si mangia addirittura con le tre dita, come così comanda il Corano. Però c'è un particolare molto interessante che ho scovato un po' di tempo fa sull'Artusi, il famoso diciamo gastronomo romagnolo, il quale riporta una ricetta chiamandola couscoussou. Couscoussou cosa sarebbe? Couscoussou. Secondo l'Artusi sarebbe il couscous. Però dove ha imparato la ricetta? In casa di ebrei, i suoi amici a Livorno. Quindi addirittura il couscous, diciamo che combina due religioni addirittura, quindi è qualcosa che va oltre le frontiere. E il couscous, tra l'altro, è veramente incredibile, perché è un couscous dolce, non quello di cui parla l'Artusi, ma che si fa nella zona di Agrigento, ancora in una chiesa appunto dove ci sono le suore di clausura. È un couscous dolce. Però per tornare al discorso degli apolidi, ci sono piatti che esprimono un'identità territoriale, come ho detto prima, ad esempio la pizza. Però la pizza è volata ormai, in ogni angolo del mondo tu puoi mangiare la pizza. E come dicevo prima, certo, magari ci sono stati dei napoletani che, arrivati in quei paesi, hanno diffuso la pizza, però ormai ci sono pizzaioli in tutto il mondo, di tutte le origini, che producono questo piatto così semplice perché è fatto da tre prodotti che si possono trovare in tutto il mondo: la farina e il pomodoro. Non si trova la mozzarella di bufala, questo è vero. Quello fa molta differenza. Fa molta differenza, però si può trovare un formaggio. Sai, ormai le bufale sono prevalentemente oggi nei paesi dell'est, quindi pur nulla togliendo all'origine della pizza, ecco, un particolare. Ultimamente il riconoscimento dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità non è stato dato alla pizza, ma è stato dato ai pizzaioli napoletani, quindi proprio segno di coloro che lo hanno inventato. Però ormai è volata via. Io credo che anche il kebab ormai, addirittura il kebab è parte dalla Germania, perché la più grande multinazionale di kebab è in Germania, e c'è stato un ideatore che era turco, da cui è partito tutto. Tra l'altro io anticipo agli ascoltatori, Davide, che di riconoscimento dell'UNESCO e della pizza parleremo per un evento molto particolare. Ne parleremo con Maria Luisa Pezzali nella seconda ora però del sabato del villaggio. Dicevi invece il kebab? Il kebab è anche questo, cioè è partito praticamente, il boom è partito dalla Germania, certo da un turco, però ormai è in tutto il mondo anche questo. Per andare al sushi, ormai il sushi è giapponese, per carità, rimane l'origine, rimane l'identità riportata ai giapponesi, però ormai il sushi dov'è che non si mangia? Si mangia perfino nelle pizzerie in Italia, poi qualsiasi angolo del mondo. Sì, devo dire, la scorsa settimana con noi c'era Niccolò Fabi che una delle sue ultime canzoni dice il sushi, che però ormai, che è giapponese, ma ormai i ristoranti in Italia sono quasi tutti cinesi. Sì. Ai noi. Esatto. Cioè, ai noi non per i cinesi, ma perché un cinese ci aspetteremmo che cucini cinese e i giapponesi, giapponese, ecco. Beh, sai, i cinesi si appropriano molto velocemente di quello che si può fare molto business. È chiaro che tra il sushi mangiato al mercato di Tokyo, all'uscita del mercato di Tokyo alle 4 del mattino. Ci sono stata, ecco, Tsukiji anzi, sì, che meraviglia. Al sushi mangiato in una pizzeria o in un altro angolo del mondo sicuramente, però ormai il sushi lo si trova da tutte le parti, quindi non ha più frontiere. Ho detto prima che non solo i piatti, ma ci sono anche i vitigni. Se uno pensa Cabernet e Merlot, cioè pensa subito che l'assonanza di questo nome è francese, eppure in Italia si producono degli ottimi Cabernet e degli ottimi Merlot. Anche questi hanno passato le frontiere, quindi quelle barbatelle sono arrivate. Il Pinot Nero, mm-hmm. Pinot Nero che è un'altra così delle eccellenze, ad esempio dell'Alto Adige. Questo vitigno arriva dalla Francia. Ti posso raccontare anche un particolare divertente. Racconta. Che anni fa il miglior Pinot Nero italiano era prodotto in provincia di Prato da un marchese Pancrazi, e per uno sbaglio, perché lui aveva ordinato delle barbatelle in Francia, no? E gli erano arrivate queste barbatelle di Pinot Nero, e se ne è accorto una volta che sono cresciuto, una volta che hanno cominciato a vinificare il vino. Eh beh, serendipità, non sai, cerchi le Indie e trovi l'America. E poi andiamo alle cucine, cioè la parola fusion, della cucina fusion, che ha imperversato per un certo periodo, ma ancora imperversa nel mondo. La cucina fusion è l'espressione di Senza Frontiere. Cosa significa fusion? Come l'hanno interpretata i malesi, i cinesi che sono arrivati in Australia? Ebbene, le loro tecniche combinate con i prodotti di quel territorio. E la fusion si è espansa un po' nel mondo con questo concetto, cioè di prodotti diversi con una tecnica magari unica, ma anche in Italia. Cioè, pensa a tanti piatti che ormai circolano nelle cucine italiane. Lo zenzero. Ecco, lo zenzero secondo me è veramente il simbolo di Senza Frontiere. Ormai lo trovi in tutti gli ortofrutta italiani. Vero? Anche al supermercato normalmente. Anche al supermercato. Entra dentro a moltissimi piatti ormai. Quindi questa è sicuramente una cucina fusion, senza che magari il ristoratore che la presenta lo dichiari. Poi fusion io, vuol dire... io con lo zenzero ci faccio la tisana la sera, così mi distraggo e evito di sbocconcellare, così non mangio nulla, mi faccio una tisana allo zenzero, ecco, che mi tiene impegnata. Tu usi una tecnica che è quella della tisana, non so, magari l'ha inventato un francese o un italiano, con un prodotto che arriva da fuori. Quindi, ma ci sono tantissimi prodotti ormai che diciamo girano, si muovono, entrano nei piatti della tradizione di molti paesi. Ad esempio, sempre sulla fusion, la cucina Tex-Mex, anche questa è un saporamento. E poi, per arrivare a un discorso nostrano, beh, in fondo la nostra cucina italiana è una fusione tra varie identità regionali. Vero, vero, vero. Quindi c'è anche questo, che noi sicuramente la portiamo a casa. Se uno va a vedere qualsiasi ricettario dove c'è scritto ricette di cucina italiana, poi dentro trova qualcosa di emiliano, qualcosa di toscano, qualcosa di piemontese, e quindi anche questo dimostra veramente che le barriere non solo, le frontiere non esistono solamente tra stati, tra paesi, ma addirittura anche all'interno di un paese, che vengono superate in questa maniera. Quindi il cibo credo che sia la massima espressione di superamento delle frontiere. Magari ci fosse anche in altri settori questo superamento di queste diversità senza creare problemi, anzi in questo caso si creano delle sinergie, si creano delle fusioni che molte volte sono anche molto più piacevoli che diciamo che i frutti di un singolo paese. Davide, tu hai qualche consiglio in particolare da darci? Per mangiare queste cose? Sì, sì. Ma senti, sulla pizza è facile. Sulla pizza è facile nel senso che io preferisco la napoletana, quella verace, rispetto a, diciamo, la pizza gourmet che viene fatta oggi. E quindi in giro ci sono tantissime pizzerie, ma quasi sembra scontato dire andiamo a Napoli. Io c'ho una pizzeria che adoro che si chiama La Notizia di Napoli, e quindi diciamo che è la mia preferita, però ti posso dare anche il contrario, cioè di una pizza gourmet, quella diciamo innovativa, e qui ti porto in Veneto, ti porto da Renato Bosco. Che ah, lui dice... l'ho conosciuto perché quando hai organizzato quel fantastico evento del panettone qui al Sole 24 Ore, e lui aveva preparato dei panettoni favolosi, lui me l'hai presentato. Vedi, sono preparata. Chissà, io ho provato il suo panettone, chissà la sua pizza. E ti dirò di più che dal 14 al 16 di maggio a Santa Lucia di Piave proprio sarà presente, farà proprio una lezione. Si chiama Gourmandia l'iniziativa, farà una lezione sulla pizza. Beh. Quindi sarà, come ti dicevo, poi ti posso dare anche altri, diciamo, altri consigli. Intanto al 349-238-6666 mi scrivono la notizia top, quindi sei subito promosso sulla pizza napoletana. Vedi? Ma sul sushi devo dire che io preferisco, uno dei posti da me preferiti è Wikis a Milano. Quindi non ci sono mai stata, me lo segno subito. Ti do un'altra indicazione. Poi sul kebab, guarda, ti do anni fa, ecco, superamento delle frontiere, a Firenze, al Cibreo, Fabio Picchi faceva il kebab all'italiana. Quindi era una cosa abbastanza divertente, nel senso che lo rifaceva alla stessa maniera, però con prodotti italiani e quindi anche con una tecnica completamente italiana. Sul couscous bisogna andare in giro per la Sicilia, nella provincia di Trapani, e lì sicuramente si trovano delle ottime cose. Poi c'è anche un festival del couscous, quindi non mi ricordo esattamente la data, però c'è un festival del couscous a San Vito Lo Capo, è diventato un posto famosissimo, quindi io consiglio per gli amanti del couscous di andare a San Vito Lo Capo quando c'è appunto questo festival, mi sembra sia alla fine di settembre. Io intanto sto cercando, sto digitando velocemente per vedere se lo trovo nel frattempo. Sì. 16-25 settembre 2016, San Vito Lo Capo, ecco, couscousfest.it. San Vito Lo Capo, io sono stato presidente per 2 anni della giuria tecnica, perché lì si sfidano, questo è interessante, ben 8 paesi, quindi fra, e ti dirò di più che un anno c'è stata un finale Palestina contro Israele, e devo dire che la tensione era molto alta perché ci tenevano questi paesi a vincere l'uno sull'altro, quindi devo dire che... Com'è finita? È finita che vinse un terzo. Ah beh! Che vinse la Costa d'Avorio. Devo dire che in questi casi avete fatto bene, io sì, sicuramente era solo per il couscous, però giusto perché così. Perché c'era una cuoca bellissima. Ah, ecco, non solo un intenditore di buona cucina. Intanto arrivano anche messaggi per te, il professor Paolini, veramente il perno delle vostre 3 ore, il core, o non so se è il core nel senso di core o il core nel senso di cuore, ma vanno bene tutte e due, grandissimo, grazie all'ascoltatore che ci ha scritto questo messaggio. Davide, hai ancora un consiglio o ci salutiamo per questo sabato? No, vediamo se riesco a darti anche un altro consiglio. Sì, sì. Io sto segnando tutto. Sull'hamburger. Bene, sì. Il consiglio sull'hamburger credo valga la pena di andare da Pisacco. Da Pisacco a Milano. Che è quello che te lo fa tutto dissezionato, cioè che non mi viene il nome, tutto separato. Tutto separato. Io credo che, ecco, questo sia come posso dire, una chicca. Mi spiace non sull'hot dog, ecco, questa è una cosa, voglio dire, voglio lanciare anche un appello. Non vedo perché ci sia questo boom dell'hamburger in giro per il mondo, perché ormai è diventato da notare, ci sono hamburger negli Stati Uniti che costano 200 euro perché, 200 dollari, perché dentro si mette anche mettono foie gras e tante altre cose. Io credo che l'hamburger invece vada mangiato così com'è. Te ne do un altro ad Arzignano, in provincia di Vicenza, dai fratelli Damini, si chiama Dam Burger. Questo è anche un altro chicca che mi è venuta. Però io stavo svicolando. Stavi facendo l'appello per l'hot dog. Stavo facendo l'appello per l'hot dog, perché si trovano centinaia, ormai a Milano ci sono 100 hamburgerie, quindi siamo non so quante in Italia. Non si mangia un grande hot dog, quindi io credo che se c'è qualcuno che vuole iniziare una nuova attività, basta con le hamburgerie, cari signori. Mettete un bel buchetto dove fare degli hot dog straordinari, magari conditi con la senape, quelli con molte cose dentro, proprio da pasticcione, che quando le mangi ti sbrodoli tutto, però godi enormemente di quello che stai mangiando, magari seguito da una grande birra. Ecco, io facciamo... vedo in regia degli occhi sognanti, ti dico solo questo, Davide. Facciamo così, perché cioè, gli hot dog credo che valga la pena, un po', non lo so. È andato completamente in disuso. È vero che non si trovano soprattutto hot dog artigianali, e anche questo, o wurstel artigianali, questo difficilmente si trovano, però io credo che sia una strada, visto che tutti vogliono occuparsi di cibo, bene, c'è un, secondo me, un settore che potrebbe dare dei risultati, e facciamolo. Poi su tutti questi prodotti l'importante è la farina, ecco, un punto certo, base, perché sia certo, sulla pizza, sia sul panino con l'hamburger, sia con altri prodotti di cui abbiamo parlato, oggi è tornata l'attenzione finalmente del consumatore alle farine, perché le farine sono determinanti per le nostre allergie, per evitare le allergie, quindi vero, bisogna spendere qualcosa in più, un appello anche ai panettieri, spendete qualcosa in più, perché le farine danno del pane molto più sano, tanto magari ormai la gente ha capito e quindi è disposta a spendere qualcosa in più per il pane. Ora c'è un grande ritorno alle farine antiche, ecco, ai grani antichi. Anche ecco, qui... Davide, magari qualche volta facciamo proprio questo ragionamento, perché mi interessa moltissimo. Adesso non abbiamo più tempo, quindi non sprechiamo pochi secondi, perché merita davvero un approfondimento. Allora, per questa settimana ci salutiamo qui. Io ho un sacco di indirizzi utili sempre nella mia rubrica del gastronauta. Tra l'altro, pensa che ci scrivono che l'anno scorso al Couscous Festa ha suonato proprio Vinicio Capossela, quindi tutto torna. Tout se tient. Grazie Davide, ciao, per essere stato con noi. A sabato prossimo.